Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati a tutti da Mirko Cavallin, nuovo appuntamento con il mondo della scuola verso la chiusura di questa stagione che concluderemo poco dopo la metà di giugno. Oggi l'argomento è di strettissima attualità, se ne sta parlando molto, il dibattito anche in televisione, su internet, un dibattito che è incentrato sulla città di Bologna. Infatti domenica 26 maggio è previsto un referendum consultivo indetto il 9 gennaio scorso su proposta di un comitato di cittadini. La consultazione si terrà solamente domenica dalle 8 alle 22. Domenica e lunedì sono anche giornate di voto amministrativo. Questo referendum cosa chiede? Questa è la domanda precisa, il testo del referendum che i cittadini del comune di Bologna si troveranno davanti. Quale fra le seguenti proposte di utilizzo delle risorse finanziarie comunali che vengono erogate secondo il vigente sistema delle convenzioni con le scuole di infanzia paritarie a gestione privata ritieni più idonea per assicurare il diritto all'istruzione delle bambine e dei bambini che domandano di accedere alla scuola dell'infanzia. Opzione A, utilizzare queste risorse per le scuole comunali e statali. Opzione B, utilizzarle per le scuole paritarie private. Questa consultazione sta suscitando un dibattito molto acceso, anche più del previsto evidentemente. Io prendo le informazioni dal sito ufficiale del comune di Bologna, che appunto ha indetto questo referendum, che è un referendum consultivo, quindi non deciderà nulla per dovere appunto di informazione. Una pagina informativa che ci sembra piuttosto obiettiva, anche considerata la nostra posizione, la nostra è una posizione di parte, lo diciamo, siamo emittente delle diocesi di Padova, Treviso e Venezia, quindi è ovvio, come abbiamo sempre dichiarato e fatto in questo spazio di approfondimento, che la nostra posizione è di riguardo, o comunque forse più attenta alla situazione delle scuole paritarie. Questo succede a Bologna, dove c'è una situazione che adesso andremo a vedere con i numeri, ma in Veneto, come sappiamo, c'è una realtà ancora più forte della presenza delle scuole paritarie. Intanto utilizziamo, come abbiamo sempre fatto, la dicitura esatta: si chiamano scuole paritarie e non si chiamano scuole private, perché ad esempio anche una scuola aperta da un comune, una scuola elementare aperta da un comune, una scuola di infanzia aperta da un comune è una scuola paritaria nei confronti dello Stato, perché è lo Stato che decide quali sono i programmi per la formazione scolastica, e quindi se una scuola è gestita dallo Stato questa cosa è automatica, se è gestita da qualsiasi altro ente, anche un ente pubblico, questo rapporto diventa appunto paritario. C'è il paritario gestito da un ente pubblico, come sono ad esempio le province, come sono i comuni, c'è il paritario gestito da enti privati, come sono spesso realtà di ispirazione cattolica, ma non solo. A Bologna qual è la situazione? A Bologna c'è una maggioranza di scuola pubblica dell'infanzia comunale e una minoranza di scuola pubblica statale. Ricordiamo tra l'altro che la scuola di cui parliamo è la scuola dell'infanzia, quindi fra i 3 e i 6 anni, che non è obbligatoria, e anche questo nel dibattito andrebbe considerato, non fa parte del percorso della scuola dell'obbligo. Il comune si è fatto carico storicamente della mancanza della presenza dello Stato significativa e ha deciso di aprire delle scuole comunali, appunto, accordandosi poi con lo Stato e mettendoci risorse proprie. In Italia le scuole a gestione privata sono il 30%, il 61% sono statali, il 9% comunali. A Bologna il 60% sono comunali, il 23% di gestione privata e il 17% invece sono statali. Parliamo anche dei soldi, perché anche qui poi si litiga alla alla fine è sempre per i soldi, per l'eredità e per questioni di denaro, ma bisogna anche quantificare. Il Comune di Bologna investe ogni anno quasi 38 milioni di euro nella gestione delle scuole per l'infanzia. Di questi quasi 38, 35 e mezzo vanno alle scuole paritarie comunali. 1,11 milioni vanno alle scuole paritarie private, quindi meno del 3%, e il 3,1% invece va alle scuole statali. Quindi stiamo parlando di questa dimensione: il 94% va alle scuole paritarie comunali, il 2,9% alle scuole paritarie private, il 3,1% totale 6% alle scuole statali o comunque non di gestione comunale. Ci sono 127 scuole per l'infanzia a Bologna, a quasi tutti i bambini è garantito un posto, però poi vedremo anche che nelle proporzioni c'è qualcosa che non torna. La legge Berlinguer, che spesso abbiamo citato, la legge 62 del 2000, ha istituito la parità scolastica, appunto, tra le scuole di proprietà e di gestione dello Stato e le scuole di proprietà e di gestione di altri enti, compresi anche i comuni. Dal 94, per ampliare l'offerta di posti disponibili, il Comune di Bologna ha introdotto anche le convenzioni con le scuole paritarie private, che hanno accettato di condividere alcuni obiettivi, altrimenti non potrebbero accedere ai finanziamenti. La questione delicata dell'articolo 33 della Costituzione, che dice che è consentita l'istituzione di scuole anche da parte di enti che non siano lo Stato, senza oneri per lo Stato, così dice l'articolo 33 della Costituzione. Qual è l'interpretazione? Da intendersi come senza oneri obbligatori per lo Stato. I firmatari dell'emendamento all'articolo 33, che introduce quella dicitura, non intendevano dire che lo Stato non avrebbe mai potuto intervenire a favore degli istituti privati, ma solo che nessun istituto privato sarebbe potuto sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. Si tratta dunque della facoltà di dare o di non dare. Questo non è frutto di un'interpretazione, ma è stato spiegato addirittura nell'Assemblea Costituente. Quindi nulla di anticostituzionale in questa posizione del Comune di Bologna, né evidentemente anche in Veneto. La regione stessa finanzia le scuole paritarie, i comuni lo fanno, e altrimenti sarebbe tutto anticostituzionale e dovrebbe essere denunciato. Così evidentemente non è. Questa è una prima infarinatura, e tra poco entriamo in ulteriori dettagli su questo referendum così dibattuto. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Gira intorno questo strano mondo fatto di prosciutto. complicato, il mondo ce l'ha regalato, sta a noi trasformarlo in cantato. Ci gira intorno a questo nuovo mondo, il mondo che non c'è. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ancora insieme con questa puntata dal mondo della scuola, stiamo approfondendo la questione del referendum. Si vota certo a Bologna, ma è un dibattito che credo possa interessare anche qui in Veneto, perché in Veneto ci sono molte scuole paritarie, scuole per l'infanzia, perché di questo stiamo parlando, e su questo verte il referendum consultivo. Uno stanziamento di poco più di 1 milione di euro all'anno per le scuole paritarie private, di gestione privata a Bologna, e 35 milioni e mezzo invece per quelle comunali. Il referendum chiede se sia a favore di uno stanziamento completamente a favore delle comunali o anche delle scuole paritarie. Da 18 anni il comune di Bologna appunto ha istituito una convenzione che consente una scelta in più rispetto alla scuola comunale o statale, che non riesce ad accogliere tutti i bimbi. C'è anche questa questione. Se togliessimo improvvisamente a Bologna, dove c'è una quota significativa ma comunque minoritaria, o addirittura in Veneto, se togliessimo le scuole paritarie, dove andrebbero a scuola i bambini? È vero che la scuola dell'infanzia non è una scuola dell'obbligo, ma è un servizio molto importante, educativo innanzitutto, è un servizio per le famiglie, più in generale per le comunità. Il 1 milione di euro, poco più, che il comune di Bologna appunto ha dato finora alle scuole paritarie non è il costo della scuola convenzionata, ma un contributo per le spese di funzionamento, per migliorare gli standard qualitativi e abbassare le rette, rendendole il più possibile accessibili a tutti, a prescindere dal reddito. Il comune garantisce anche la formazione degli insegnanti delle scuole paritarie. Il contributo è diretto alle 27 scuole in convenzione, le scuole paritarie, che danno posto a oltre 1700 bambini su quasi 9.000, e quindi in proporzione queste scuole ospitano più bambini rispetto alle altre. Il 3% dell'investimento va appunto alle scuole paritarie a Bologna, ma il 19% dei posti che viene coperto dalle scuole paritarie. Esclusa la costruzione degli edifici scolastici, al comune servirebbero non 1 milione ma 12 milioni di euro all'anno, quindi 1 milione al mese, non 1 milione all'anno, per far funzionare il numero di scuole necessarie ad accogliere lo stesso numero di bambini, cifra che dallo Stato non arriva e che invece il Comune ha deciso di stanziare da molti anni stanzia. Ci sono dei posti liberi, non tutti i posti sono occupati, perché poi questa è decisione anche dei genitori se mandare oppure no il proprio figlio o figlia alla scuola per l'infanzia, non essendo, come detto prima, una scuola dell'obbligo. Dunque questa è una proporzione interessante, come dicevamo. Ci sono in proporzione le scuole paritarie occupano un numero di posti maggiore e ad un costo gestionale comunque inferiore, che è una cosa che noi abbiamo appunto sempre ricordato in questo spazio. 38 milioni di euro quasi ogni anno stanziati, 35 e mezzo vanno alla scuola comunale. E questo referendum chiede l'opzione A, utilizzare questi soldi per le scuole comunali e statali, utilizzarli per le scuole paritarie private. E parliamo non dei 38 milioni, ma solo della gestione di quel 1 milione di euro, perché è chiaro che alle scuole statali non viene tolto nulla, cioè quei 35 milioni e mezzo continuano ad essere stanziati ed erogati. Tutta la questione, tutto questo dibattito anche molto infuocato, televisivo, televisivo, sui giornali, prese di posizione da una parte e dall'altra, insomma anche di nomi importanti a favore o contro. Tutta questa questione si gioca su 1.100.000 euro per 27 scuole private. Dividete 1.100.000 euro per le 27 scuole private per 1.700 bambini, alla fine quanto viene fuori per ogni bambino all'anno. Evidentemente un conto che probabilmente non torna. Qui il dibattito, da quello che ho visto io personalmente, ci è parso piuttosto ideologico, le prese di posizione insomma piuttosto forti. Quindi non è una questione di essere contro la scuola paritaria, bisogna essere a favore di tutta la scuola e soprattutto a favore dei bambini. Un'ultima pausa e poi torniamo insieme per chiudere con qualche altro elemento questa panoramica sul referendum consultivo a Bologna. Dal mondo della scuola. Secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really let myself astray. Runaway train. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train. Everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train. Track. Runaway train burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Runaway. Ultimi minuti insieme per questa puntata dal mondo della scuola dedicata al referendum consultivo a Bologna. I cittadini sono chiamati ad esprimersi appunto per un parere, non è un voto vincolante per l'amministrazione, ma il dibattito in queste settimane è stato molto acceso. Destinare oppure no 1.100.000 euro alle scuole non comunali, quindi alle scuole paritarie o statali o di gestione privata, 1.100.000 euro su quasi 38 milioni di stanziamento all'anno. Su questo verte la questione. Torno ai numeri. Durante la pausa ho fatto così un conto a spanne, a mente. A Bologna ci sono 70 scuole comunali che ospitano 5.327 bambini. Ok? Invece le scuole statali e le scuole private convenzionate sono 52 e ospitano 3.400 bambini. In proporzione ne ospitano di più, evidentemente senza superare i limiti previsti dal ministero, ma la proporzione è molto a favore o a sfavore, se volete, delle scuole private, dove il numero di alunni è molto maggiore in proporzione rispetto alle scuole comunali, ma il finanziamento è molto minore, evidentemente. Certo, ci sono le rette, evidentemente, ma come dicevamo prima, come abbiamo detto più volte in questo spazio, parlando delle nostre scuole venete e rilanciando le posizioni espresse dai nostri vescovi e più in generale dalla Conferenza Episcopale Italiana, se dovesse essere lo Stato a gestire queste scuole, innanzitutto costruendole, perché non ci sono, e quindi dovendo spendere soldi che in questo momento non ha, se lo Stato o comunque un ente pubblico dovesse solo costruirle e poi gestirle, spenderebbe molto di più di quanto non costino attualmente nella gestione di un ente privato, sia esso di ispirazione cattolica, anche se rappresentano evidentemente la maggioranza in Veneto sicuramente, magari in Emilia Romagna c'è una quota minore di questa situazione. In Emilia Romagna, ad esempio, circa un terzo delle scuole sono di gestione privata, il 20% sono comunali e il 46% sono state. La situazione è decisamente invertita in Veneto, dove due terzi delle scuole sono paritarie, sono di gestione privata, delle parrocchie normalmente o degli enti religiosi, e solo un terzo sono degli enti pubblici. Ma qui subentrano ragioni storiche, perché in Veneto già prima dell'Unità d'Italia si era pensato alla funzione della scuola, dell'asilo, come si chiamava allora, appunto per i bambini. Lo Stato ancora non c'era, è arrivato tardi, quando poi c'è stata l'Unità d'Italia, e però le comunità parrocchiali, le comunità cristiane si erano già organizzate appunto con delle scuole e hanno continuato con il loro servizio. Tuttora in molti comuni, in molti paesi ci sono solo le scuole parrocchiali e non ci sono le scuole statali, motivo per cui appunto c'è questo supporto anche finanziario da parte del comune e della regione. Sappiamo che il supporto dello Stato è andato via via calando negli anni, ma è un finanziamento molto, molto importante, anche se non arriva a coprire completamente tutte le spese. Finanziamento che poi è diviso proprio matematicamente per ogni bambino, per cui quello che alla fine è il costo, diciamo un costo standard di un bambino, sappiamo bene che è molto più alto quello di un bambino che frequenta una scuola statale rispetto a quello che frequenta una scuola paritaria, anche perché, ed è solo uno degli aspetti, le insegnanti delle scuole paritarie prendono uno stipendio più basso rispetto alle insegnanti della scuola statale, facendo lo stesso lavoro e applicando gli stessi programmi formativi per i bambini. Dunque Bologna, domenica chiamata al voto, solo nella giornata di domenica, un dibattito molto, molto acceso, spesso con prese di posizione informazioni precostituite, da quello che abbiamo visto, letto, insomma, anche su, su internet e sui giornali in questi giorni. Potete approfondire anche voi la, la questione, insomma, noi vi abbiamo dato qualche spunto, qualche numero, proprio a partire dai dati, dai numeri. 1 milione di euro, di questo si sta discutendo, su uno stanziamento di totale di quasi 38, e si discute appunto del milione per 27 scuole, senza contare i 35 che invece vanno a 70 scuole. La proporzione, insomma, fatevela da soli. Con il mondo della scuola ci ritroveremo puntualmente fra 7 giorni. Grazie di darci regia, a voi per l'ascolto, da Mirko Cavallin. Buon proseguimento con Blu Radio Veneto. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.